radiation, radiation. Radioactivity. E buonasera e bentornati a una nuova puntata di Metal Zone, ancora mercoledì, ancora metal. Questa sera puntatone speciale, perché questa sera a farci compagnia nella Metal Zone sono venuti niente proprio di meno che i Jump Scare. Ragazzi, buonasera e benvenuti. Buonasera. Salve. Ringraziamo Giovanni Ready Action per lo spazio, grazie ragazzi per la fiducia, sperando che in questa intervista potete, diciamo, scoprire cose nuove e interessarvi al progetto in maniera più forte. E sicuramente, perché avremo modo di parlare insieme di questo vostro progetto veramente interessante. Chiaramente voglio sempre ringraziare Young Re per la sigla di Metal Zone, che ormai anche voi conoscete sicuramente. I nostri amici dal Brasile. E l'hardcore là ma sta andando veramente forte, sono già diventati una bella band da 2000 copie vendute, chissà quanto sta succedendo, veramente l'impossibile. Sono grossi numeri anche soprattutto, però parliamo di voi, perché voglio subito introdurre il discorso che riguarda il vostro collettivo, insomma, questa band particolare. Io ho sentito canzoni abbastanza diverse l'una dall'altra. Come è nato questo progetto? Ora, non voglio parlare sempre io, perché non voglio sembrare, diciamo, il capo. Esatto. Diciamo che dalle ceneri, sempre il mio fratello, dalle ceneri di un gruppo più post-grunge, più verso anche verso un po' l'indie, diciamo che senza fronzoli mi sono rotto le palle di non suonare mai metal, quindi ho detto perché non fare un gruppo metal. Infatti noi le prime prove le facevamo con cover diversissime tra loro, cioè Rage Against Machine, Motorhead, ci piazzavamo pure gli Alter Bridge, per farti capire, c'era Lorenzo che cantava Addicted to Pain. Bella. Sì, sì, bellissimo. E poi siamo levati qualche sfizio e poi piano piano la cosa è diventata. Poi diciamo che abbiamo avuto concreto. Sì, infatti, poi qualcosa di concreto, perché molti poi cambi di formazione, cioè sì, della formazione originale, perché diciamo non ufficialmente siamo formati a giugno, stavamo io, Lorenzo e X strumentisti, diciamo. Ok. Censuriamo perché non gli vogliamo dare questo merito. Facciamoli fuori tutti. Vabbè, a parte gli scherzi, poi ho preso mio fratello che ha iniziato come chitarra ritmica, poi è passato al basso. Scusa. Allora, devi sapere questo. Sì. Io stavo giocando con i videogiochi perché abbiamo la sala prove a fianco allo studio dove io ho il PC. E stavo giocando, entra questo puffo biondo che inizia a urlare come un pazzo. Io ho detto no, devo entrare e devo vedere. Io, bastardissimo, inizio a fare: ragazzi, ma vi do una mano con il mixer, c'è qualcosa che non va, fate fare a me, non vi preoccupate che io ho suonato già con l'altro. Esatto. Ora che l'abbia fatta bene o meno non importa, però intanto c'è stato questo interesse, perché io, diciamo, dopo quel progetto lì avevo quasi abbandonato l'idea. Quindi di... si può dire che ti ho fatto tornare la voglia di suonare? Sì, mi ha fatto tornare la voglia. E vi torna talmente la voglia perché la vostra band si forma ufficialmente nel novembre del 2015. Esattamente. E diciamo che scusami, grazie. Siamo competitivi. Aspetta, però allora prima di volevo introdurre il fantastico. Perché a questo punto devo dire che Lorenzo Gallo è alla voce, esatto. Devo dire che il puffo biondo è il puffo biondo, esatto. Vincenzo Mussolino alle chitarre e alla voce, ecco, esatto. Salvatore Ciccarelli al basso, è lui che sta parlando, e Graziano Ciccarelli, sì, sì, alla batteria. Insomma, ecco, dopo questo preambolo, ecco, lascio questa giustissima parentesi. Diciamo che avendo perso determinati membri, mm-hmm, allora abbiamo detto cerchiamo qualcuno, conoscevamo il buon Vincenzo, e allora mi ha detto dai, vediamo se ci sta. C'è stato troppo bene. Tra l'altro, tra Eccolo. Noi tre, chitarrista, batterista e bassista, c'è un'esperienza musicale da quasi, si può dire, 5-6 anni. Diciamo che tutti i progetti che abbiamo avuto, o Vincenzo e mio fratello ci sono stati sempre, o per un piccolo periodo o per un grosso periodo. Intruso ero io, in pratica. Cioè, esatto. Noi conosciamo Lorenzo perché faceva parte di un gruppo, faceva tributo ai Dead Children of Bodom, e c'era questa sorta di leggenda metropolitana a Marigliano dove c'era praticamente questo buffo biondo metallaro. Perché voi siete di Marigliano. Sì, diciamo che Marigliano. Io e mio fratello siamo di Marigianella, però diciamo Marigliano che è più nobile. Okay. non mi spingo fino, anzi. È un onore per me avervi stasera, perché come? Siete venuti per noi è un piacere a trovarci negli nella nostra paese. Sede radioattiva, bellissimo paese. Vi invito anche a provare Sassicciotto e Giovanna, dici sotto da noi, perché noi abbiamo una pasticceria subito. Basta che sia salsiccia nel panino e basta. Basta che sia una salsiccia nel panino. Però dicevo. Non pensi che si sposi, si mangi Panzarotto, però. No, poi un caso mangio salsicciotto e basta. Ok. Allora, tornando seri e tornando nel metal, già ho Graziano davanti a me che ha una maglietta che ce l'ho a casa nel cassetto, non so se è la mia, l'ha rubata dal mio cassetto, comunque. Mettiamo una canzone che loro hanno scelto per cominciare questa playlist. Prima di lanciarla ti voglio dire che io ho rotto le palle da giugno 2015 fino a qualche mese fa. Dobbiamo fare la cover. Cioè, ecco, questa è Walk dei Pantera. Infatti loro appena, diciamo, iniziavo a diventare pesante facevano: facciamo Roots. Infatti poi alla fine hanno ceduto e noi Fai prima Roots, poi fai a dicembre per ricordare Dimebag Darrell, che è la sua infatti noi io sono legato parecchio a questo gruppo, sia perché è stato il gruppo che ho ripreso ad ascoltare prima della formazione, sì. E quindi per me, infatti, appena abbiamo provato un sorrisone esagerato sulle labbra, perché uno dei miei gruppi che mi ha influenzato, diciamo, proprio come musicista, come ascoltatore di metal, quindi un piacere. È un piacere mio, anche perché giustamente, come hai potuto vedere prima, ce li ho tatuati. Quindi, insomma, a me mi veramente rappresentano i Sepultura. È la puntata scorsa che l'ho fatto. Sì, sì, io che ho seguito, io ho seguito. Una reissue, una puntata vecchissima, non si sentiva bene, quindi l'ho rifatta perché valeva assolutamente la pena. I Sepultura con Max Cavalera, ecco, Igor Graziano Cavalera si chiama, quindi... Sì, hai ragionissimo, però beh, il lato di Derek Green bisognava a me non piace, poi sono fatto di gruppo, di gusti, diciamo. Meno a me più di tanto, però devo dirti la verità, negli ultimi album si è ripreso abbastanza. Sì, sì, ho seguito Vatican, sì, che è un bel non pezzo. È male, sì, non, sì. Non è assolutamente male. Stiamo parlando dei Sepultura, ragazzi, ci andiamo ad ascoltare Roots, Bloody Roots. Un saluto ancora da Amon, un saluto dai Jumpscare, rimanete nella Metal Zone. In onda ancora, dopo questa canzone, vabbè, l'abbiamo sentita la settimana scorsa, non ne parliamo proprio. Anche perché, come dicevo a loro nel fuori onda, questo album è un po' triste per me, perché dopo il 96, insomma, Max Cavalera, per questioni e cazzi vari, ha dovuto lasciare, per colpa della moglie, quella grandissima stronza, diciamo le cose. Sempre diciamo le cose. E quindi ha dovuto lasciare, però insomma ci consoliamo con i Cavalera Conspiracy almeno. O con i Soulfly, che sono un gruppone. Preferisco i Cavalera Conspiracy, beh, sì, però sì, sai, ho letto ultimamente che c'era una piccola... Ecco, vedete, noi ci saremo. Allora, noi chitarra, diciamo. E batteria dei Jumpscare saranno a Milano a vedere il ventennale di Roots. Già. Ricordate questa data, ricordate. Quindi se ci becchiamo là e vi faccio cadere a terra col poco, ci scusate. Un autografo sul culo. Datevi appuntamento, io create un evento. Rasatelo. Creeremo rasatelo, un evento. Rasatelo, rasatelo. Serve spazio. Fatevi fare un autografo sul culo dal jumpscare. E allora, tornando a voi, tornando proprio alla vostra musica, vogliamo parlare di questo vostro disco che io ho atteso per un bel po'. Sì, anche io, sai, anche voi ragazzi, parecchio tempo. Il vostro EP dal titolo Three Marks of Dream. Esattamente. Cos'è questo EP? Allora, io faccio parlare Lorenzo, perché Lorenzo è stato diciamo, Lorenzo e Salvatore sono stati compositori per quanto riguarda Salvatore la musica e Lorenzo per i testi, che poi da questo testo, cioè dalla prima traccia, Broken Lens, è partito un po' tutto il concetto di concept. Prego. Niente, prego. Diciamo che intorno al mese di dicembre 2015, una volta finito di fare le prime cover, una volta entrato Salvatore, il bassista nel gruppo, e Vincenzo chitarrista, decidemmo di iniziare la prima esperienza come inediti, quindi di iniziare a creare la prima musica personale. E decidemmo di entrare in sala e di creare almeno due o tre pezzi per un primo lavoro da incidere proprio nei prossimi mesi. E come argomento abbiamo iniziato. Tra l'altro, questo pezzo già era stato scritto in parte. Ah, sì, iniziato, se non sbaglio, iniziamo a scriverlo già nell'estate prima del 2015. Sì, ma sostanzialmente non potevamo chiamarci ancora Jumpscare, esatto, perché eravamo una cover band che giocava un pochino a proporre qualcosa di nuovo. Poi non sapeva la chitarra, non sapeva. Sì, ci sono stati troppi passaggi che nessuno interessa, che sono troppo noiosi. Perché siete arrivati a Broken Lens? L'argomento, diciamo, di tutto l'EP sono i sogni e gli incubi, di come questi influenzano appunto la psiche umana, le azioni umane tutti i giorni. E quindi noi abbiamo deciso che, essendo questo un argomento che influisce molto sulla personalità, sulle scelte, sulle azioni dell'uomo, abbiamo deciso di parlarne in questo nostro primo lavoro, perché ci colpiva molto l'argomento. Infatti il primo pezzo si chiama Broken Lens, parla appunto delle terre distrutte intese come terre interiori. E il testo parla di una persona che sta sognando in un incubo e si sente perso, da solo, e racconta di come le persone si sentano sole e sono sempre cioè, di solito si sentono sempre attorniate da varie persone nella vita quotidiana, ma a un certo punto, nei momenti più difficili della loro vita, vengono lasciate sole. E quindi la persona che di cui noi parliamo in questo testo lamenta appunto il dolore della solitudine e di come appunto è brutto restare solo nei momenti di fuoco. È anche un sogno che facesti tu personalmente. Sì, è un sogno che ho fatto. Sostanzialmente l'idea dei sogni, come dicevo, abbiamo deciso noi, cioè io e Lorenzo all'inizio, poi abbiamo fatto partecipare anche gli altri di questa idea, che hanno collaborato sia per quanto riguarda la loro produzione a livello di partecipazione mentale e contemporaneamente anche strumentale. Il discorso dei sogni è legato anche al fatto che a noi piace giocare con questa immagine, proprio per il fatto che, grazie al pretesto di un sogno, noi possiamo anche parlare di cose concrete. Esatto. Per esempio, Broken Lens. Okay. Lui ti ha dato una spiegazione. Stiamo arrivando al mio punto. Sì, esatto. io ho avuto il mio punto di vista su questa canzone. Sì. Dal testo è chiaramente molto introspettiva. Sì, poi sì. Infatti, però la parte è che per me significa, io ti ho dato per esempio il mio punto di vista, lui sì, ne ha un esatto, altro sulla stessa canzone, e loro ne hanno addirittura. Ma questo è proprio il concept. Ma il concept è questo, perché diciamo, lui, avendo fatto la stesura del testo, ha voluto dare un'impronta personale, molto personale, molto intima. Però il concetto del testo stesso è stato sviluppato successivamente da tutti gli altri componenti, perché abbiamo comunque anche voluto dare una sorta di sottotrama, nel senso Broken Lens è stata costruita sia a livello proprio di testo come una rappresentazione di quella che potrebbe essere la situazione politica economica dell'Italia. Esatto, okay. Cioè, nel senso che tu ti ritrovi in un paese stupendo, adorato, che sotto i tuoi piedi si distrugge. Esatto. E sei solo e non ce la fai. Lui ovviamente ha voluto dare un'impronta personale, perché lui è stato quello che ha avuto l'idea principe. Anzi, secondo me ha vissuto questa cosa in maniera più brutta di noi, sì, cioè, esatto, nel senso, chiaramente noi, ovviamente, più personale, giocando, no? Con questo suo sogno, abbiamo potuto dare questa diverse sfaccettature, questa sfaccettatura differente. Questo è, direi che è proprio una costante del metal, perché forse è l'unico modo di dire le cose ma nasconderle anche dietro uno scream. Esatto, questo è il concetto principe del meme. Ma infatti, se noti sul dopo ti faremo vedere proprio materialmente sul nostro sito, ci sta una didascalia dove dice che i sogni sono quell'argomento che divide e accomuna tutti. Esatto. In questo caso divide e accomuna tutti. È un altro riferimento a questo gioco immagine dei sogni, è che noi abbiamo dei gruppi che piacciono un po' a tutti, però ognuno tende ad avere il suo tocco personale, il suo gusto personale. Allora, la forma definitiva dell'EP è stato comunque anche questo abbraccio di compromessi, ma in senso positivo. Sì. Questi compromessi costruttivi, che secondo me nella musica ci devono stare per forza. Benissimo, noi ci andiamo ad ascoltare, perché ormai ne abbiamo parlato, bisogna farlo ascoltare a tutti. Ci andiamo a sentire il vostro, la vostra prima... Lorenzo, faccio uno scream a volo. Vabbè, a freddo. Uno scream a freddo prima adesso, dai, ci sta tutto. E ci sentiamo la prima traccia del loro EP, Three Marks of Dream, Broken Lens. Loro sono i Jumpscare. Looking around, seems to know what you mean. Make it out now. eccoci ancora on air, live and loud con i Jump Scare da Marigliano. Ragazzi, come vi trovate nella Metal Zone? Siamo molto comodi, ci sentiamo veramente a nostro agio. È abbastanza, più che altro, sai, i soliti discorsi. L'unico problema sostanzialmente è affrontare la vecchia guardia, perché questi sound un po' new age non vengono tanto accettati. Da una parte posso anche capirli, però molto spesso rimangono accecati. Poi soprattutto, a prescindere, il metal è una forma d'arte come tutte le altre. Ne parlavamo prima io e Vincenzo. Diciamo, è un genere che va contro la società. Quindi perché deve essere per forza canonizzato? Perché esatto, ci deve essere una base di elitarismo, di purismo? Cioè, va contro stesse le dottrine del metal, chiamiamole così. Sì. I 10 metallamenti all'atroce, diciamo. Ecco i 10 metallamenti. Però quando ho ascoltato, insomma, il vostro album, devo essere sincero, mi è venuto quello che poi è il nome della vostra band, un piccolo jump scare. Perché adesso vorrei capire da voi il perché di questo nome. Chi vuole iniziare? Se volete, ragazzi. Giusto, Vincenzo. Ho beccato proprio la domanda. Inizia Graziano, dai. Che bella domanda. Allora, praticamente è una bellissima domanda, perché molti credono che ci sia qualche questione filosofica. Allora, praticamente, Lorenzo fa tardi. Fai tardi alle prove. Io sono un ritardatario cronico. Dice, ragazzi, vado in bagno, torno. Passano due ore e mezza. Vabbè, dimmi a che ora devo arrivare, che io vengo un'ora dopo. Esatto. Praticamente l'unico difetto, adesso non vi potete proprio lamentare. Allora, esatto. Sarebbe dato. Gente vuole sapere i fatti. Esatto. Cioè, parlate. Vabbè, praticamente, dato che stavamo io e mio fratello e X persone, diciamo. È la X che ritorna. Esatto. E questa X se ne torna a casa, che giustamente aveva da fare, Lorenzo viene tardi. Allora, io non avvisiamo Lorenzo, io vado a Salvatore, ma vogliamo fare uno scherzo a Lorenzo? Lo facciamo cacare sotto? Come si deve, però. E come si deve, perché così si leva il vizio di fare tardi. Non si è levato il vizio, però diciamo che a questo fatto ha contribuito alla stesura del nome. Sì. Salvatore, puoi spiegare tu, perché sei stato tu l'artefice dello stile. Continua tu. No, semplicemente abbiamo posizionato la stanza in modo tale che fosse a luce soffusa, tutto spento. Con un giochino di corde praticamente si spostava la sedia. Così sembra un set di un film porno. I giochini di corde. Ma l'importante era sottometterlo, quindi ci può anche stare là. Metal Zone che diventa fetish zone. Perché, tra l'altro, voi sapete che la stanzetta di transizione tra la sala prove e le scale è tutta buia. Ogni volta che si scende e si passa in quella piccola sala prima della sala, raccontalo prove, in questo modo che più di è tutto buio. E quindi non si vede un cazzo, scusate il termine. E niente, io apro, vado per aprire la porta. Loro avevano organizzato tutto. Nel momento in cui aprono la porta, scatta allora, una serie di cose che lui non è riuscito ricordo, a capire. Sono traumatizzato da questa cosa. In pratica è stato un semplice bu che però ha portato al fatto che lui, spostandosi, mi ha visto me con un sacco della batteria in testa di mio fratello al buio la custodia con della casa, esatto, la custodia della casa. Scusami, che poi praticamente io ho detto sono hai carta bianca, quindi sono andato a prendere Lorenzo vicino al cancello. E mi sono spaventato pure io, tanto che io sono scivolato e sono aspetta, caduto. Aspetta, fammi raccontare. Non spoilerare. In ogni caso, spoiler a metal. La stanza a fianco è la sala degli attrezzi di mio nonno. C'era un martello enorme. Mamma mia. Che bello. Quindi io sono uscito con questo sacco in testa nero, poco percettibile, con questo martello gigante a urlare come un pazzo. E Lorenzo ha saltato a mo' di ranocchio, ha saltato per tutta la stanza per poi fuggire. No, io ero super pensiero, non me l'aspettavo proprio. Tra l'altro sono andato a finire in faccia a Graziano, ci siamo urtati, siamo caduti tutti e due a terra. Cioè io sono stato... Però questa cosa... Avete fatto del male, ragazzi, sono traumatizzato, devo andare dallo psicologo. Però non è abbastanza. Era destino, ragazzi, però doveva succedere. Sì, però il discorso è che noi all'epoca cercavamo un nome per la band. E ho pensato all'improvviso, mi piace Jump Scare, allora è piaciuto. Poi abbiamo cercato di dare anche un significato, ci abbiamo provato. Sostanzialmente ci piaceva l'idea di essere, visto la nostra, diciamo, idea di percorso musicale, un piccolo salto dalla sedia per un ascoltatore. Non intendo principalmente di sound, quando il fatto che noi spughiamo dal nulla, questo è quindi stato anche un modo per dire dai, portiamoci un po' di fortuna da soli. E infatti siete sbucati davvero dal nulla e siete subito approdati nella nostra zona di metallo elettrificato. Un piacere davvero, perché siete una band nata da pochissimo, sì, potrei dire. Ho aspettato il vostro album per parecchio, lo ripeto, ragazzi. Abbiamo aspettato anche noi. Avete aspettato anche però così ci fa emozionare. Non lo so, era proprio quello il modo, però voglio passare un'altra canzone che voi mi avete indicato questa sera per la vostra playlist speciale per i nostri ascoltatori del metal, e piazziamo un bel pezzo dei Linkin Park, perché io sono un estimatore dei vecchi album. Non si può dire niente su Meteoro, non si può dire niente, insomma, sul resto su Meteori nemmeno. Assolutamente. Su Meteori nemmeno, sul resto si può parlare un pochino di più. Però la canzone che tu hai scelto è No More Sorrow. Io ho trovato una versione live, quindi ancora più emozionante, e dopo parliamo anche un po' della vostra esperienza, proprio riconducendoci ai live, se siete animali da palco o no. Ci sentiamo tra poco dopo Linkin Park, ancora con i Jump Scare, ancora con Metal Zone. We'll be right back. E rieccoci dopo un corposo fuori onda, dopo aver ascoltato e goduto dei Linkin Park. Torniamo di nuovo in diretta e chiaramente volevo chiedervi, la domanda stavolta la faccio a te Vincenzo, siete animali da palco o no? Cosa fate nei vostri live di solito? Come vi presentate? Allora, i nostri live inizialmente sì, parlando, iniziando dal look. Okay. Il look nostro non, sì, era, non era deciso. Non era deciso finché io un giorno non vengo in sala e dico: ragazzi, ma per una situazione live di certo non possiamo vestirci jeans e maglietta. Ah, ma fa coccoso. Dobbiamo fare. puntavamo a. Puntavamo, come parlando prima delle corde dei film porno, a un abbigliamento un po' sadomaso. Però abbiamo lasciato stare poiché la corporatura del cantante non era... Non è chiamabile. Non sono adatto. Vabbè, ragazzi. Sembrava un'acciuga chiusa dentro. Grazie. Prego. Ah, ci ha provato però. Sì, sì. Ma davvero l'hai fatto davvero? No, no, no. Scherzavo ovviamente. Ma potevi diventare il mio idolo e mettevo il tuo poster in camera stanotte. Guarda. Invece vabbè, ho perso l'occasione. Tutto questo look, è nato, ecco. Sì, tutto questo è nato ovviamente da me dicendo che ci serviva un look adatto per una situazione live perché... L'immagine. Ahimè, l'immagine conta, contava prima come conta anche adesso. Inizialmente puntavamo a una sarta, che questa sarta però, ahimè, poi abbiamo votato su Emp perché abbiamo trovato, diciamo, il video, dovevamo fare anche il video, quindi non avevamo tempo di aspettare. I tempi erano troppo lunghi e quindi abbiamo deciso per una soluzione un po' più... Sì, che poi a noi è una cosa che a noi piace perché alla approfitto e ringrazio i ragazzi perché in quel periodo era il mio compleanno, loro hanno provveduto a pagare... A pagare la spesa del mio abbigliamento. Fantastico. Che vorrei che fossero tutti poi, giorni. Diciamo, collegando ci hai fatto dei live. Noi con questa formazione, purtroppo, essendo nata da poco, non abbiamo ancora. Diciamo, li abbiamo programmati. Non ti possiamo svelare ancora niente perché stanno in fase di organizzazione. Ringraziamo la. Mannaggia, non posso avere. Vabbè, però ti possiamo, no, però ti possiamo dare riferimento. Vai sulla pagina di Strake, che sarebbe la booking agency che diciamo ci ha preso. Abbiamo un concerto verso novembre, poi abbiamo anche qualche cosa che ci stiamo organizzando da noi, anche cogliendo anche occasione per ringraziare anche la nostra produzione, la nostra etichetta B-Side di Salerno, che anche loro ci fanno sia da management che da, che diciamo, da agenzia di prenotazioni per i live. Però tornando sempre, io non voglio uscire da questo discorso, quando voi facevate insomma le prime vostre esibizioni, no? Sì, io sono un animale. Come vi siete posti, cioè come l'affrontate voi, come vedevate, cioè insomma quando uno vede la gente saltare, sì, si trasforma, diciamo che... No? Allora io penso che vabbè, i primi live come gli ultimi ci sta sempre quell'emozione, quella carica di adrenalina prima di esibirsi davanti all'altra gente. E io penso che se un musicista andrebbe a perdere questa qualità dovrebbe smettere di suonare, sì, lo dico sempre anche ai ragazzi. Questa è una cosa da sottolineare ragazzi, perché non è sempre così. E la domanda era proprio per arrivare a questo punto. Scusa se ci abbiamo divagato, ma abbiamo anche inserito altre informazioni. Ma avete fatto benissimo, perché effettivamente il messaggio che voi passate per me è proprio questo, perché voi siete una band nata da poco, subito vi siete tuffati in una cosa di difficoltà estrema, guarda, proprio overkill. Perché poi diciamo che in zona c'è poca possibilità di esprimersi. Cioè va nella nostra zona. Nella nostra zona, ovviamente. Come già noi siamo già, per esempio, noi siamo scesi le parti di Salerno, sì. Battipaglia, quelle zone lì. E ci stanno un sacco di locali. Per esempio, è venuto Igles Priester dei Hangar col suo gruppo alla Mermaid's Tavern e là, cioè, tu non te l'aspetti. Nel suo tour europeo c'era una data a Salerno. Oppure ci sono gruppi anche che vogliamo ringraziare anche per il supporto di amici nostri, si chiama Circolo Witches, sì. Che ci hanno dato una mano, diciamo, durante la produzione, ci hanno dato dei consigli. Sì. Vogliamo ringraziare Antes, Mario e Giuseppe del Giuseppe, sì. Diciamo Giuseppe, che consigliamo anche a voi ragazzi di Metal Zone dell'ascoltare. E niente, poi sostanzialmente noi vediamo che ci sta poco giro attorno, però noi puntiamo in grande, noi vogliamo cercare di realizzare questo sogno, anche forse è stato anche questo una delle materie del concept, cioè i sogni. Per noi la musica è un sogno, Cioè, noi non siamo praticamente nessuno e vogliamo diventare qualcuno con la musica perché fa parte di noi. Cioè, io se non suono, io muoio. Cioè, almeno personalmente non riesco. Cioè, tutti quanti abbiamo un piano B. Cioè, chi noi studiamo, tutti quanti, chi solo musica per farlo diventare una professione, chi all'università. Però alla fine noi vorremmo fare solo questo. È difficile, però noi ci proviamo, perché non vogliamo arrivare a 70 anni con i rimpianti. Questo è tutto. Perché, ragazzi, è più semplice di quello che pensate, e soprattutto è perché il metal di base è sempre passione, ma la musica in generale è questo. E poi se vogliamo parlare di music business, no, il metal, quello non ne parliamo. No, cioè, il metal non è un genere dove... Preferisco molto più l'underground, è proprio questo il motivo. Sì, ma per esempio il metal non è un genere come il pop, che ti pia un produttore, due dischi e ti manda a fanculo e poi tu cadi depresso, tipo quella che vanno amici, X Factor. Vabbè, non vogliamo aprire questi discorsi, perché già Pino Scott che già ci ha buffato le palle, quindi... No, io non conosco queste persone. Ah, non conosci Pino Scott? Lo conosco, ma non lo conosco. E allora... E allora non dico più niente. Però grandi Vanadium, comunque, grandi Vanadium. Sì, rispetto per quello che è stato. Rispetto, rispetto. Assolutamente. Poi ognuno. Ah, ragazzi, noi non dimentichiamo, adesso sembra una cazzata, però noi abbiamo fatto una puntata qui a Metal Zone di un gruppo italianissimo, che sono i DTSS. Mica cazzi, ripeto, la settantesima volta. I DTSS sono uno dei primi gruppi metal della penisola. Cioè, per me... Poi parliamo proprio di horror metal, cioè parliamo di altro che concept, è proprio uno stereotipo fatto metal di quello che era la filmografia di quell'epoca. Diciamo la versione... 70-75. Io i DTSS li conosco, li adoro, hanno fatto, secondo me, una versione metal di quelli che sono i Misfits. Cioè, con l'horror, forse un po' più spinto, ecco... Però già la differenza è che i Misfits vengono da una base che è quella punk, cioè punk. Però anche molto scanzonata, loro sono molto più seri. I Death invece sono molto più seri, anche nei testi, in effetti, sono un po' più bizzarri nei testi, anche perché mettersi nei panni di un vampiro, credo che sia possibile, no? Diciamo che oltre a quelli che abbiamo già citato, noi consigliamo, cioè io Graziano consiglio i Death SS, che un gruppo che ho scoperto da poco, ma mi sono domandato perché non li ho ascoltati prima. Vedi, bisogna ascoltare Metal Zone, così ascolterete anche i jumpscare. Oh, ragazzi, adesso continuiamo con la vostra playlist, perché è bella, bella di pezzi. E la scelta è proprio di Vincenzo, una canzone di Motorhead, un classicone del metal. Per rendere anche omaggio alla morte di Lemmy, esatto. Che ragazzi, abbiamo anche la bandiera in sala dei Motorhead, quindi. I Motorhead è proprio il metal fritto e mangiato proprio. Diciamo che conserva quell'attitudine pura che a distanza che si è persa, ma a distanza di anni trova ancora delle sacche di resistenza. Ragazzi, i Motorhead hanno fatto N album, adesso non ricordo, ma sono veramente tantissimi. Sì, sono come più di 30. Tra live, split, hanno fatto anche molti split. La diretta che ho fatto sui Motorhead è stata divisa in due proprio per questo motivo. Però ho notato. Non si finiva Lemmy, più. Lemmy è un mostro. Faceva uscire un album dopo ogni sei mesi, un anno, in un anno, due. Sostanzialmente, molti credono che i Motorhead siano solo Lemmy. Invece, Lemmy comunque aveva un'attitudine che trattava anche molto, molto bene. Diciamo i suoi collaboratori. Poi Lemmy è Lemmy e non c'è nulla altro da aggiungere. Sì, lui ha ottenuto quella che è l'immagine iconica del frontman, però... Oh, scusate. Dicevo, ha ottenuto l'immagine iconica del frontman, quello amatissimo, quando che rappresenta la band, però rispetto a molti altri, lui è riuscito a essere anche un componente di una band, che è molto più importante. Poi scopava mezzo mondo, chi meglio di lui? Non oso immaginare cosa poteva fare. Gli diamo un bacetto al cielo ricordandolo. E ci andiamo ad ascoltare Ace of Spades con i Motorhead, una scelta dei Jumpscare, ancora Metal Zone. Di Vincenzo. Yeah. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the joke. Jump scare, una scelta di Vincenzo. E continuiamo perché è arrivato il momento ancora di parlare della vostra musica, della vostra arte, se. Basta solo semplificare così. E la seconda canzone del vostro EP, lo ripetiamo dal titolo Three Marks of Dreams, si chiama Succubus. Adesso questo nome, visto che io ho fatto il classico, ahi voi, io so cosa significa, mi dovete spiegare un po' il perché di questo succubus. Vediamo se l'idea che mi sono fatto io anche attraverso i testi è quella giusta o no. Giochiamo. Vediamo giochiamo. Se vinci un bacetto. No. Allora, è molto meta questa cosa che ho appena detto. Mi ritiro dalla competizione, anzi saluto. Voglio salutare, ecco aspetta un attimo, voglio salutare queste due persone che ci hanno scritto, ossia Laura Landolfi, che vi dice grandissimi ragazzi, grande, è innamorata grande. Di voi, non... tutto bene, e Ayub Allumi che dice grande Lorenzo, grande, le fangirl del cantante, bene Ayub. Un saluto anche allo staff di Abbassa. Ed ecco, ritorniamo su Succubus. Sì. Perché Succubus? Allora, sostanzialmente l'immagine della succube è quella di un demone che riesce a possedere l'uomo e a consumarlo pian piano fino a portarlo alla morte. Questa immagine è nata sostanzialmente sempre per un sogno che ho fatto e è stato divertente giocare con questa cosa, perché all'inizio è nata come una poesia, perché mi ero appena svegliato, ho detto devo sfogarmi su questa cosa, è stato un sogno orribile, non lo voglio neanche raccontare. E devo puoi sfogarmi, ma come sono io che parlo, lascia sta, finisce okay. Tu, tagliamo. Comunque creo questa poesia forse qualche mese prima che nascesse effettivamente la necessità di rendere il gruppo un gruppo che produce inediti. Quindi dopo aver prodotto il testo di Broken Lens, ho chiesto ai ragazzi se poteva essere divertente giocare con questa poesia. Ovviamente era molto diversa, cioè molto la stesura sì. Di una poesia è completamente diversa da quella di una canzone, soprattutto poi trasformarla in inglese, perché noi non è che traduciamo, altrimenti verrebbe uno schifo, noi ricostruiamo ex novo. Sì. Infatti da questa poesia io e Lorenzo abbiamo un po' lavorato per tirare fuori questo testo. Sì, per strutturarla insomma da, sì, per da renderla poesia a testo, da testo, cioè senza fare tagli, quindi riscriverle da capo. La metrica, le rime. Esatto. In inglese. Sì. In inglese, perché poi un concetto che ti prende un bel po' di strofe, magari in inglese è una sola frase. Esatto. Quindi cioè, si è dovuto un po' giocare. È stato divertente. Sì, è stato divertente perché abbiamo dovuto lavorare e senza... Cioè... Non tanto, perché Succubus racconta tanto quanto la sua lunghezza, cioè nel senso esatto. È lunga tanto quanto le discussioni che abbiamo fatto noi in sala per renderla così. Sì, è stato doveva un essere una ballad, doveva essere un pezzo pesante, un pezzo melodico, ci siamo scontrati, ha reso giustizia al nome che porta. Perché è sinonimo di sciagura comunque questa sì, immagine e quindi ci siamo dati le peggio testate. Comunque sì. Parlando del testo, mi piaceva giocare sul fatto che riguardava l'incomprensione dei rapporti umani, sostanzialmente la possibilità che ha l'uomo di uscire dai propri problemi, proprio perché essendo questo un EP legato da uno stesso concept, mi piaceva trovare qualcosa che uscisse insieme a Broken Lens, o comunque fosse una sorta di continuum di Broken Lens, anche se non diretto. Quindi in una situazione dove si soffre per mancanza di soldi, perché i politici rubano tutto quello che volete, cosa fa l'uomo comune? Rimane in se stesso, si lascia consumare, e questa frase poi adattata dal grandissimo Lorenzo: ogni singolo giorno prega per una vita migliore, esatto, e ogni singolo giorno piange per una vita migliore che non potrà mai avere finché non si libera da questa entità. La succube rappresenta il problema, esatto, dell'uomo. Per questo l'abbiamo anche scelta come singolo, perché sostanzialmente chiunque può percepire essere il protagonista di questa storia. Esatto. Anche perché, diciamolo, comunque le canzoni, se leggete i testi, potete sbizzarrirvi perché c'è una storiella dietro, ci potete giocare. È ovviamente un sogno e va interpretato. Sì, quindi è bello per questo, perché poi ognuno può costruirsela addosso, cucirsela addosso. Ecco, infatti è proprio questa la cosa che mi è successa leggendo e sentendo il testo di questa canzone. Anche perché dovete sapere che, insomma, io le ombre e queste cose andiamo d'accordo. Andiamo parecchio d'accordo. Andiamo d'accordo. Preferisco molto la notte, è proprio il silenzio della notte. Leggevo questa frase bellissima questi giorni, che il silenzio della notte è in realtà un rumore, ed è il rumore più bello che puoi ascoltare. Allora, forse ricondurre il tutto a un testo così introspettivo, che tratta anche un po' dell'amore, ragazzi. Certo, sì. Certo, diciamo che l'idea non è proprio, cioè, anche se nel testo c'è effettivamente la frase "tutto ciò che avrei voluto da te era l'amore", l'idea comunque non è di mascherare, di utilizzare l'amore come una maschera. Perché dietro quello che può essere un sentimento amoroso di una succube, prendiamo proprio il personaggio, sì, ok? C'è la distruzione. Certo. E quindi era carino giocare con queste parole, con la parola amore, e creare, sì, un'immagine che può ingannare, proprio come la succube, però se tu riesci a comprendere ciò che ti stiamo cercando, sì, di dire, allora là trovi tutto fuorché l'amore, e questa, certo, è la cosa divertente. Però è trasformarlo forse, proprio come tu dici alla fine, perché anche se sta sanguinando dalla sua bocca, insomma, sì, e ha le ossa rotte, la furia ormai si è trasformata, e quindi è come se la succube diventa un po' la persona che la subisce. Esatto, questa è la parte finale. La parte finale. Allora, vedi, ci ho beccato in tiro. Perfetto, grandissimo. Perfetto, perché grande. Poi infatti noi volevamo dare una sorta, ci vediamo per il bacetto. No, ragazzi, bacetto no. Volevamo comunque dare una sorta di happy ending, perché alla fine è quello che noi stiamo cercando di trovare nella band, sperando che riesca ad andare avanti. Quindi noi vogliamo essere positivi, e questa positività anche nel dolore di questo testo è stata lasciata vergine e pura. Bellissimo. Poi su Facebook trovi anche, diciamo, le foto backstage. Lui è l'altro. Io sono diciamo il Lars perché faccio sempre pubblicità. No, a parte gli scherzi, puoi trovare le foto del set, perché presto uscirà il video di Succubus, okay, senza tagli, quindi versione integrale. Quindi ragazzi, io sono a petto nudo, quindi fate voi. Oh, ancora più. Ah, poi questa, una cosa importante che devo dire: questo è stato il primo pezzo che è nato grazie ai riff di Vincenzo, perché Vincenzo è entrato nella band, ci ha proposto questi riff, e da lì abbiamo costruito il pezzo. Quindi è stato anche come posso dire, la suggellazione completa della band questa, sì, tra l'altro, sì, è stato anche, cioè, un successo per noi riuscire a completare questa canzone, poiché anche strumentalmente avevamo dei piccoli problemi, cioè abbiamo litigato, sì, è stato abbiamo un pezzo molto sofferto a livello, sì, compositivo, sì. È quello più sofferto dei tre. Abbiamo costruito, poi l'abbiamo smontato, l'abbiamo rimontato, non ci trovavamo, no, ma così non va bene, l'abbiamo rimodificato. Comunque abbiamo perso un sacco di tempo, ma alla fine siamo soddisfattissimi perché è stato un bel lavoro. E noi ce lo andiamo ad ascoltare. E magari da qualche giorno anche vedere, dai. Dai. Noi adesso ce lo andiamo ad ascoltare in piccola anteprima, ragazzi, ricordate. Solo per Ready Action. Adesso solo per Ready Action, poi. Dai, allora faccio quella presentazione sexy. Succubus. Rimanete con la Metal Zone. questo era Succubus, seconda traccia del EP dei Jump Scare, Three Marks of Dream. E continuiamo. Beh, cogliamo l'occasione per salutare il nostro grafico Valerio, che ha curato tutto dal logo alla copertina, il suo intero. Grazie, Valerio San Giacomo. Ecco, visto che ci sei, perché non dai un po' di link per Three Marks of Dreams? Perché chiaramente saranno i nostri ascoltatori interessati. Allora, per l'ascolto, diciamo, dell'EP potete andare benissimo su piattaforme come Spotify, Napster, però non siamo come Metallica, non lo diamo Napster, Tidal, vabbè, poi ci stanno varie piattaforme, diciamo, più settoriali, tipo Angami, che sarebbe lo Spotify dei paesi, diciamo, arabi, eccetera eccetera. Però vabbè, sì, anche su iTunes, eh? Sì, iTunes, Amazon. iTunes, Amazon. Noi vogliamo dire solamente una cosa, che ecco, diciamo tutto, siamo anche su Tumblr, cioè ci trovate dappertutto. Parola d'ordine, parola d'ordine, Jumpscare, Three Marks of Dreams. Ah, vogliamo cogliere anche su YouTube, ragazzi, il nostro canale ufficiale Jumpscare Band Official. Spotify, sì, già ho detto. Ah, okay, okay. Beh, poi vogliamo, diciamo, siete anche su Facebook, sì, forse è lì che possono trovare tutti i link, sì. Soprattutto per l'acquisto, ragazzi. Come per l'acquisto potete acquistarlo per adesso solamente in digitale, non abbiamo programmato delle copie fisiche, essendo solamente tre pezzi. Anche perché poi sostanzialmente è un primo passo, è una prima proposta, è sostanzialmente un EP / demo. C'è la volontà di farci conoscere, quindi perfetto. Però il discorso è che noi personalmente parlo, credo a nome di tutti. Poi anche l'etichetta e tutta la. Sì, però sostanzialmente noi abbiamo comunque l'esigenza di dare una prima forma del nostro lavoro e poi svilupparla col tempo. Se avessimo deciso di produrre molti più pezzi, probabilmente questa evoluzione che noi cercavamo non si sarebbe potuto attuare. Quindi per ora quello che abbiamo voluto fare è, questa è la prima forma, il primo biglietto da visita, esattamente, bravissimo, il primo biglietto da visita. Questo è quello che è il nostro potenziale, questo è quello che possiamo darvi. E ovviamente ci piace molto molto l'idea che comunque con l'uscita del disco ci sarà una evoluzione molto più definita. Questo, secondo me, per un fan, per qualcuno che ascolta musica e che è appassionato di musica, è oltre a una questione probabilmente personale, nel quale tu dici effettivamente: guardami, questo era un anno fa, questo sono adesso, questo sono da 2 mesi. Quindi chi è appassionato può percepire l'evoluzione, studiarla e giocarci, insomma. Ah, guarda loro come hanno pensato alla linea di chitarra, come si è sviluppato il basso, guarda qui invece cosa hanno preferito fare piuttosto che prima. E anche per dare questo senso di pulizia, sia come musicisti che come persone. È una cosa che, scusami, è una cosa che preferivo dire, perché poi comunque vorrei dire che ci trovate, mi pare, aspetto social, su tutti i social, da Twitter, su Reverb Nation, che però abbiamo caricato solamente un pezzo, perché comunque volevamo che Reverb Nation non lo utilizziamo, perché noi preferiamo più Facebook, più, diciamo, abbiamo più anche un sito internet. Sì, abbiamo anche un sito che ho fatto io, si chiama jumpscareband.tk, che TK è un dominio gratuito, perché sono andato a scovare, diciamo, tipo si trova in qualche isola, diciamo, del sud oceano, insomma, un posto un po' sperduto, in qualche capanna. Sì, sì, secondo me. Ovviamente ci potete trovare anche su Instagram, sì, @jumpscarebandofficial, YouTube già l'ho detto, anche Facebook col nome Jumpscare. Ma i nostri, diciamo, chi vuole approfondire i Jumpscare trova tutto nelle informazioni su Facebook e sul sito, soprattutto, cioè voi trovate tutti i link per tutto il nostro mondo, diciamo. E chiaramente andrete anche a riascoltare questa puntata, però certamente, però noi qua scatta la promessa, perché se casomai vi viene voglia di registrarlo sotto un porto normale, CD, qualcosa del genere, ne farete due e uno me lo darete a me. Wow, come? Principalmente. Diciamo che per noi anche è un piacere, non solo che... Lo pretendo autografato, ovviamente. Ah, wow. Ah, grazie. Onorati, insomma. Dovere. E proprio per approfondire il discorso con voi, che non finirei più, voglio passare a parlare un po' con Lorenzo, perché la scelta della canzone successiva che andremo ad ascoltare nella nostra playlist, scelta dai Jumpscare questa sera, scelta piuttosto personale, molto personale, si parla di Wait and Bleed e qua proprio mi sciolgo. Non solo tu. Mi sciolgo del tutto. E la domanda di Rito quando si parla di Slipknot e Wait and Bleed è perché? Allora, diciamo che all'età di 13-14 anni Wait and Bleed di Slipknot è stata la prima canzone metal in assoluto che ho ascoltato. E i Slipknot si può dire che ci sono cresciuto, mi hanno influenzato da tantissimi punti di vista. Adoro il cantante Corey Taylor, è un idolo per me, come anche tantissimi altri membri del gruppo. Domandone a crudo. Non belle palle su Gojo e Jordison. Però sì. Domandone a crudo, tu accetti gli Stone Sour? No. Perché? Perché per me non è un genere, a parte che non mi piace, non mi piace, a parte che sì, sono troppo legato al genere che fanno, alle emozioni che mi hanno sempre trasmesso, ma sinceramente per me gli Slipknot sono gli Slipknot, una versione alternativa di quel genere non, sinceramente non l'ho mai apprezzata appieno, non ti so dire il perché, sì, a parte il genere che non è... Non sono metal! Non sei metal! Esatto. Vabbè, ma comunque i Stone Sour possiamo, possiamo diciamo assaporare un Corey Taylor sotto altri aspetti, sotto altri aspetti. A me piacciono. Sì, anche a me ci sono canzoni degli Slipknot tipo Danger Keep Away che... Insomma, alziamo le mani. Anche più non ci vedete, romantiche ed emozionanti di gli Stone Sour. Ma lui è fanboy. Non fare il fanboy. Wait and Bleed, dicevo, è una canzone che poi è stata rifatta, rimasterizzata in modo diverso, perché io l'ho ascoltata nella versione che poi andremo ad ascoltare quando è uscito il primo album, quando io su un magazine metal ho trovato il video di Speed It Out e non ci ho capito più nulla. E l'ho vista, cioè, insomma, io l'avevo vista in anteprima perché poi avendo comprato il giornale, insomma, dice, ma chi sono questi pazzi? Sì, sono spettacolari. Allora, da chi sono questi pazzi sono diventati gli Slipknot, perché qualche anno dopo, nel 2000, hanno suonato nel Gods of Metal. Sì, grandissimo evento. Stavano con i testamenti, insomma, erano un Gods of Metal veramente coi controcoglioni. Ed era la loro prima apparizione in Italia. Fu una cosa pazzesca. Il delirio. Sì, no, ricordo ancora uno di un post, cioè un giornale di quell'epoca, ricordo un titolo a carattere cupidale, Il rumore sale in classifica. Esatto. Spettacolare. Lì erano ancora abbastanza sciolti, sì, e poco controllati. Sì, rabbiosi. Rabbiosi, come ci piace a noi. Ci piace a noi. E noi ci andiamo ad ascoltare questa versione più growl di Wait and Bleed, sempre una scelta di Lorenzo, ancora con i jump scare, ancora con Metal Zone. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can see, inside my shell I wait and bleed. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can see, inside my shell I wait and bleed. Goodbye, a woman of our town, the night is mine. Everything is dirty, blasphemy. My ears are running cold. The air is standing straight up. This isn't the way I picture me. I can't control my shakes. How the hell did I get here? Something about Slipknot, una canzone da avere, da ascoltare dovunque. Sì, sì. Comprate il CD originale, non fate così. Noi già ce l'abbiamo originale, l'abbiamo la versione che ancora con più riti. 1999, mamma mia. Sì, abbiamo ancora la versione con più riti. Ah, bene. E poi bene. Se andate sul sito, ci sono le nostre pagine personali e abbiamo tutti quanti nel nostro profilo, appunto sul sito www.jumpscareband.tk, gli album preferiti, e trovate sotto la mia pagina e quella di Lorenzo Slipknot. Ricordo ancora che quando andai a cercare la copia fisica, sì, non la trovavo più. Già non la trovavo più quando ricordo di essere andato in questo negozio musicale a Nola. Era l'ultima copia che avevano. Quando la trovai, sì, un negozio musicale a Nola. Sì, sì, sì, sì, sì, negozio musicale parecchi. A Nola. Però noi ragazzi dobbiamo salutare, perché mi sì, corre sì, l'obbligo di salutare Valerio Helig Jacob, non so. Abbiamo già salutato il nostro grafico Valerio Sanciaco, grande Valerio ancora bella, voglio. Peppe Aurim. Beh, Peppe è un nostro amico che ci segue, diciamo, da vicino il progetto, ci ha aiutato durante il video, diciamo che è uno della riconosce più, bene quello l'abbiamo video, visto l'ho visto ieri proprio. Ciao Peppe. No, ma vi conosce bene perché parla di nomi siglati per private. È un personaggio, è un personaggio. E mi ha chiamato anche caro speaker, io mi emoziono, lo ringrazio. È un pezzo importante della crew. Esatto, esatto. Ok. E poi salutiamo Martina Nises d'Andrea, che sì, dice bravissimi. Diciamo che Martina è una mia amica della compagnia, diciamo, del sabato. Salutiamo la compagnia che si chiama Compagnia del Crocchettone. Poi c'è tutta una storia dietro. Però saluto tutti i ragazzi di Nola che ci seguono, che hanno comprato il nostro EP. E credono. Sì, parecchio. Infatti, veramente non mi aspettavo che ci fosse questa risposta. Che uno pensa: beh, gli amici lo fanno perché sono amici. Invece loro è piaciuto talmente tanto che ci stanno riempiendo di complimenti giorno dopo giorno. È una soddisfazione. Martina appunto ha detto che lo vuole far comprare al padre, soro, zio, nonno, cioè praticamente vuole fare spread the love. Grande Martina. Abbiamo tanti amici spammoni e questo è un bene. Continuate così ragazzi, mi raccomando. Tanti amici spammoni, belle scelte da quello che leggo, tornando sempre alla vostra musica, alle vostre insomma aspirazioni musicali, perché tutti volevamo essere come System of a Down. Sì, io almeno cominciavo così, suonavo in posti proprio lontanissimi dalla civiltà, armato di microfono o chitarra, insomma, e cantavamo i pezzi dell'epoca, perché noi li ascoltavamo, li scaricavamo un pochino perché non c'erano i funghi, il vecchio Wimix, delle cose molto vecchie, cosa hai resuscitato Wimix. Mamma mia. Qua si parla di System of a Down, che è legata poi questa cosa, insomma, c'è stato questo pezzo che è stato criticato abbastanza perché Beyond Your Own Bombs, che poi viene scritto come Biob. Sì. Sto pezzo, insomma, è stato accusato di essere un tantinello filo nazista. Sì, ma non per qualcosa. No, è effettivamente qualcosa. Il video è un po' estremo. Daron Malakian, soprattutto, a quel look lì. Ma soprattutto tu, perché? Allora, System of a Down perché? Beh, nella mia evoluzione come ascoltatore di questo genere, diciamo che loro sono stati il punto principe, perché prima da bambino ascoltavo la cosa più che si poteva avvicinare al rock e al metal, erano i Linkin Park. Ovviamente da piccolino io non sputo sul piatto in cui ho mangiato, mai. Sono quello che sono, apprezzati o meno, però all'epoca uno non sapeva cosa fossero i Metallica, i Megadeth, non aveva questo tipo di ascolti, non era ancora accessibile per questioni di gusti. Allora Linkin Park sono stati il primo ascolto. Però perché allora non i Linkin Park e i System of a Down? Perché i System of a Down mi hanno insegnato ad ascoltare metal. Poi voglio dire una cosa, scusami Salvatore, che i System of a Down è stato anche il mio primo gruppo che ho ascoltato. Perché l'ascoltati, perché l'ascoltavo. Sì, avevo 7 anni, l'MP3 che mi regalarono alla comunione, tutto di System of a Down, Iron Maiden, sì, Motorhead. Esatto, però i System of a Down hanno questo piccolo spazio nel mio cuore, perché mi hanno insegnato che cosa è un riff, come si gestisce una bella dinamica di batteria, l'estro di un cantante che nel metal è differente da quello che puoi trovare nel pop o nel rock. Infatti il grandissimo Serge Tankian, che i fratelli Ciccarelli sono debitori System of a Down. Siamo debitori, perché comunque qualcuno ha ascoltato, per esempio tra i nostri amici, parlo dei miei amici, i Linkin Park, per esempio, però non ha mai ascoltato effettivamente, non è mai andato oltre. Mentre siamo down insegnano anche tipo nel cantato, nel cantante Serge Tankian, appunto, che in alcune canzoni o a volte sussurra o non dice parole, a volte fa tipo beep beep, una cosa, esatto, del genere. Esatto, quindi questa cosa per me in particolare, che ero abituato ad ascoltare, non lo so, quello che passava per radio e neanche mi interessava, era: ma che cavolo sta facendo? Perché fa beep beep? E allora sì, esatto. Allora tutto questo, allora by Hob poi, perché effettivamente a me piace tanto ascoltare i riff di chitarra, anche se sono il bassista. Aspetta, ma ti becco, secondo me tu lo giocavi sulla video con il chitarrino qualcosa del genere, perché questa era, faceva parte di... facevo schifo. Ah, okay. Quindi e mi scocciò subito. No, vabbè, in realtà by Hob semplicemente perché è quella che ritengo più cazzuta. Tutto qua, non c'è un motivo particolare. Anche il messaggio che vuole esprimere, proprio il testo, proprio una denuncia. Sì, ma poi io, allora, a prescindere da quello che può avere una canzone, i messaggi di una canzone, io rispetto in primis gli artisti. Poi se qualcosa la condivido o non la condivido sono affari sostanzialmente miei. Però se a me piace come è stato pensata la linea vocale, lì come canta, il riff che c'è, che mi fa insamare, mi fa alzare dalla sedia, mi fa camminare nella stanza, allora perché non la devo citare? Poi certo adesso ascolto tutt'altro, però devo tanto ai System of a Down perché mi hanno insegnato ad ascoltare metal. Ed è chiaramente una canzone da un significato veramente profondo, perché è attualissima e le cose purtroppo non cambiano, perché la situazione in quel periodo era di guerra, anche se adesso forse è più, insomma, c'è, siamo la, là, non siamo è cambiato là. Niente. È la frase che io ricordo di questa canzone, che poi è quella che mi ha fatto capire il senso vero di questa canzone, è sempre "Why they always send poor". Loro sono i System of a Down, una scelta di Jumpscare, ancora Metal Zone. Blast off! devo qua. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sun. Behind your own bombs, dietro le vostre stesse bombe, una canzone di System of a Down. E continuiamo dopo questa scelta veramente azzeccatissima di Salvatore. Voglio parlare di nuovo un po' del vostro EP. Mi serve qualcuno che mi spieghi e mi porti con lui attraverso questa illusione. Ok, penso che ti questa sì. Vostra o mia illusione, perché giustamente your illusion si riferisce un po' a chi volete. Beh, allora, come parte la nascita di questa canzone? Il buon Vic ci porta bella roba. Beh. E io ho l'idea di iniziare a scrivere un testo. Parlo della parte testuale, che è quella che mi riguarda di più, sostanzialmente. Poi lascio la parola al buon Vincenzo. Beh, Your Illusion parla sostanzialmente della guerra, in senso molto molto molto metaforico, perché parla di un essere umano che, dopo aver combattuto, un veterano, ha questa visione della perfezione che gli era stata promessa, ma che piano piano, riafforando i ricordi del dolore, questo mondo in cui sta vivendo... Sì, è sempre un sogno, ovviamente, tornando al discorso dell'EP, si trasforma, si muta in qualcosa di orribile, che è la rappresentazione di quei ricordi dolorissimi e del dolore che ha provato, quindi nel periodo in cui stava combattendo, e ora che è anziano riaffiora tutto. Allora lui si rende conto che ha combattuto una guerra che non aveva deciso. Da giovane un soldato magari può pensare: sto combattendo per la mia patria, a parte poi tutto quello che sta succedendo in questo, quindi quello che si sta sentendo in questo periodo, mi sembrava abbastanza giusto parlarne, almeno nella sensibilità che noi abbiamo e per quello che ci fanno sapere, purtroppo. E proprio su questo si basa, cioè che ci riempiono di illusioni e ci portano a collassare in noi stessi. E si ricollega sia a Broken Lens che a Succubus, perché comunque parla di questa, mentre Broken Lens parla della distorsione del sogno in incubo del dolore, Succubus è proprio la fonte del dolore, Your Illusion è l'atto finale, ovvero che alla fine sei in una totale illusione, credi di aver risolto, perlomeno dato una mano, poi magari ti sei reso conto che hai combattuto in mano per i voleri di qualcun altro, hai fatto ti sei sporcato le mani per qualcun altro. Si lega quindi anche ai fatti quotidiani, perché purtroppo tutti noi siamo costretti ai compromessi nella vita, vuoi che essi siano buoni o siano cattivi, alla fine ti trovi... Alla fine dice, what I've done, your illusion. Cosa ho fatto? Le vostre illusioni. Quindi, certo. Diciamo, mi piaceva toccare questo tasto dolente. Non è totalmente diretto, anche perché non me la sentivo. Sinceramente, volevo che fosse una cosa che potesse essere attuale anche in futuro o anche in passato. Questo è sostanzialmente il lato del testo. La guerra purtroppo è sempre attuale. Esatto. Perché può essere una guerra interiore, una guerra tra popoli. E poi soprattutto, almeno questa è una mia opinione personale, non me ne vogliano chi ascolta. Per me, per quanto mi riguarda, tutto ciò che si sente, possono mettere in mezzo qualsiasi motivazione, per me riguarda sempre il petrolio, quindi i soldi, è solamente guerra di business. War for Oil, insomma. Esatto. Ora però voglio lasciare un pochino parlare Vincenzo, perché lui è stato molto diligente per questo pezzo. Sentiamo, sentiamo. Allora, ti parlo della parte strumentale. Sì. La parte strumentale, come ha detto Salvatore, io porto un'idea in sala, la vediamo in sala, la sperimentiamo sotto varie forme e ci esce qualcosa. Portando questo riff, il riff che sentite all'inizio, si decideva per fare qualcosa di molto più complesso. In realtà a quel punto non serviva fare qualcosa di complesso, perché visto che era piuttosto, cioè, il testo di questa canzone voleva narrare qualcosa, facendogli qualcosa magari di più complesso, dovevamo narrarglielo non in maniera pulita, esatto. Ecco. Un po' criptica. Esatto, sì. E, un po' il linguaggio dei sogni, ovviamente, no? Come dice la canzone Your Illusion, Illusion, un'illusione. Questa canzone a volte dà l'illusione di dover fare qualcosa, però quando poi ci sta una pausa, un qualcosa, magari ne fa un'altra. E secondo, cioè, a nostro parere, questa è la particolarità che abbiamo voluto dare in questa canzone. Sì, infatti, si gioca proprio sul fatto che abbiamo fatto questo giochino, cioè il testo che voleva dire questa cosa e la canzone che cercava di seguirlo, ovvero la canzone ha una base di partenza, si sviluppa, tu pensi che si sviluppa nel classico modo che sei abituato ad ascoltare e invece ti trovi tutt'altro. Proprio questo è il gioco che ha voluto proporre Vincenzo, giocando anche con il testo. Forse sei riuscito appieno in questo gioco, perché ti devo dire la mia impressione, poi finale di... Giustamente questo è il brano conclusivo del vostro EP. Insomma, questo vostro concept album sui sogni mi ha fatto un po' immaginare, quando voi parlate di guardare all'abisso, no? E quindi sperare in un miracolo. Molto spesso, e molti sogni ricorrenti sono quelli in cui uno sogna di cadere, esatto, senza, sì, più, sì, fondo. Ma è proprio questo. Ma ci ha proprio studiato alla perfezione. Noi pensavamo, allora, pensavamo che fossi così bravo. Ragazzi, ci siamo stupiti. Pensando chiaramente a questa vostra illusione, mi viene proprio semplicissimo pensare che questo è un risveglio da tutte le cose che si vedono da queste gabbie, dal fatto di non poter morire, perché tu stai cadendo, in effetti. Esatto. Questa pace che tu senti, questo vento che dispersa, in realtà non esiste, perché è pur sempre un sogno. E questo è un però bel messaggio, ragazzi. Intanto lo vivi. Le emozioni sono reali. Intanto sì, lo vivi, e le emozioni le mettete voi, giustamente, perché avete creato davvero un bel pezzo e noi ce l'andiamo ad ascoltare, sia per il lato tecnico, proprio parlando di parte strumentale, voi ce l'avete spiegato benissimo, nonché a livello di testo, che poi è quello che mi ha colpito. Poi parlavamo in fuori onda del fatto del liceo, qui entra in gioco teoria di Freud e di Jung, quindi tu che mi puoi capire, diciamo. Vabbè, non ci esageriamo. Non esageriamo. Vabbè, a me piace la filosofia. Ci troveremo quindi a parlare dei Tool un'altra volta. Sì, sì. Grandissimi Tool. Magari io li devo rifare, magari mi fate compagnia. Wow, come perché no? Perché sarebbe un onore. Come insomma, minimo. Li devo rifare, quindi mi serve a disposizione. Serve la componenza. Sì, mi serve la componenza, la presenza e la malinquenza. Vedete qua, Tool, che vi abbraccio tutti. Però seguiamo questa illusione e andiamo ad ascoltare Jump Scare con Your Illusion, ancora con Metal Zone. Don't need to go, it's an eye. E rieccoci on air con censure fuori onda. Non possiamo ripetere, non lo ripeterò mai quello che ho detto. Ne va della... Non lo saprete mai. Lo voleva il bacino. Torniamo alla musica, torniamo a cose profonde, perché ragazzi questa sera è davvero una puntata fuori da ogni schema, una puntata che non mi aspettavo, così introspettiva, bella, bella, bella. E proseguiamo, perché voi mi dicevate che dopo questa canzone, sera, questa illusione, questo risveglio, però ci facciamo un pochino male ancora, perché mi parlavate di Falling Away From Me dei Korn. Diciamo che l'ho scelta io, perché sostanzialmente mi sono ispirato a David Silvera. Perché praticamente se ascoltate la strofa di Falling Away From Me e la seconda strofa di Your Illusion, io cosa ho fatto? Ho preso l'idea del doppio Charleston e ho cambiato gli accenti e l'ho riutilizzata. Infatti anche nello studio uno dei ragazzi che era insieme al fonico diceva: questo sembra un pezzo hai preso una cosa di Limp Bizkit o dai Korn? E tu non l'ho preso dai Korn, perché comunque la prima volta che l'ho ascoltato i Korn erano in prima media, quindi sostanzialmente dopo il periodo Slipknot mio, il periodo Slayer che mi porta ancora avanti, ho ascoltato i Korn e mi hanno stupito per questo fatto, che mi hanno spiazzato sia dal punto di vista di groove, di batteria, perché dopo quell'intro tu non te l'aspetti che si evolva così il pezzo. Invece è stata una bella roba, diciamo, una bella pazzata in fronte. Infatti l'ho sempre, quando ho proposto questo groove a loro per cambiare un po' la dinamica della seconda strofa, subito Vincenzo mi ha guardato come se fosse chissà che invenzione, e ho detto: no, aspetta, e l'ho ripresa da Falling Away From Me. Quindi comunque è stata una tua invenzione. Sì, sì, diciamo che l'ho rimaneggiata, l'ho riadattata. Infatti mi piace molto questa parte, penso che sia un poco la parte migliore che potevi esprimere, nel senso pochi pezzi ben piazzati e il groove che fa camminare il pezzo, perché alla fine, essendo batterista, il groove è l'unica cosa, se non la prima cosa. E ti piace dare le sciamarriate sulla batteria? Sì, sì, infatti molte persone pensano che io sia un batterista che pesta solamente, invece nel mio pestare ci sta anche qualcosa di ragionato, e questo è un tributo a David Silvera. Sì, David Silvera, che non è uno dei miei batteristi preferiti, ma uno dei miei arrangiatori preferiti. Poi magari se ci sarà possibilità vorrei fare anche un tributo in termini di groove a uno dei miei batteristi preferiti, ma questo lo lasciamo per il futuro, che è Dave Lombardo degli Slayer. Ah vabbè. Però ah, vabbè. Ci sto lavorando sulla doppia cassa, ci sto lavorando. Vabbè, ti crediamo, aspettiamo chiaramente di ascoltarlo, perché adesso l'hai detto, quindi sì, farai un altro sussidio, assolutamente. Sì, sì, sì, sì. Ho un bel DNR, capito, pieno. Pieno pieno, sì, sì. Non vi deluderò. Prima di arrivare alle battute finali, perché ragazzi io vi terrei fino a domani mattina, ci sentiamo prima questo pezzo, sentiamo Falling Away From Me dei Korn. Rimanete con noi, rimanete nella Metal Zone. Ed eccoci ancora live and loud per l'ultimo break di questa rubrica. Questo mercoledì all'insegna del metal, all'insegna dei jump scare, che sono qui ospiti a Ready Action, ragazzi, in anteprimissima. Che ringraziamo, ringraziamo. Ringraziamo, grazie, grazie a voi. Un saluto a Giovanni, a Amon qui, ecco, bravo. e anche a Pasquale, che è stato lui a farmi conoscere tutta la crew, diciamo, di Ready Action. Quindi grazie a tutti. Grandissimi, veramente, ragazzi. È stato un piacere, quindi... Però aspetta, rinnoviamo. Prima di saluto, prima dopo di passare, rinnoviamo prima, i saluti con calma. Prima di passare ai saluti, no, piano piano. Slowly. Ecco. Tu mi dicevi, guarda, infatti ho visto le prime volte che hai messo quella fotografia, dice guarda che figata è la copertina dell'album, guarda che bella figata. Ma infatti, ci spieghi un po' perché? Io mi sono tenuto in contatto in questi mesi e c'è una storia, c'è una gestazione dietro questa copertina. Sì, c'è molto lavoro, perché comunque... Sì, vabbè, a parte che noi partivamo all'inizio con idee molto confuse, sì. Quindi diciamo che prima doveva essere, diciamo, dei segni sulla pelle, cioè dei marchi sulla pelle, poi abbiamo, li volevamo come dei marchi, diciamo, su una pergamena, poi abbiamo insieme al nostro grafico Valerio San Giacomo, che rinnoviamo i saluti, abbiamo studiato questo concept, e dietro ci sta diciamo qualcosa che ci accomuna, che sarebbe lo studio, cioè almeno personalmente lo studio per le tradizioni precristiane nelle rune. Sono delle rune stilizzate, cioè abbiamo preso le rune sia mesopotamiche che celtiche che anche elleniche, abbiamo preso un pezzo e le abbiamo modellate. Ciascuna runa, diciamo, ha un significato che è riconducibile a proprio l'espressione del pezzo, quindi la prima runa, cioè in ordine, da sinistra a destra, Broken Lens, Succubus e Your Illusion. Cioè ciascuna runa è un marchio della canzone, ecco. E lo sfondo con i neuroni, appunto... Non è tutto casuale, perché poi si congiunge al concept. Comune alla psiche umana. Sì. Vincenzo, vuoi dire qualcos'altro? Ma più che io. Dato che, l'hai scelto tu. Dovrebbe parlare Lorenzo, sì. Il nostro sì. Volevo dire che è stato un lavoro molto lungo. Infatti, io ringrazio sempre Valerio, il nostro grafico, che ci è stato molto appresso, perché trattandosi appunto di un argomento come i sogni, un argomento vastissimo, era pure difficile riprodurre un'immagine di quello che volevamo trasmettere nella copertina. E quindi dopo vari cambiamenti, come ha detto Cassiano, prima dovevano essere dei marchi a fuoco sulla pelle, poi abbiamo optato per altre scelte, poi alla fine abbiamo scelto di mettere come sfondo appunto questi neuroni, questo sfondo nero che appunto desse l'impressione della mente umana, dell'ampiezza, della profondità della mente umana. Poi il nero è un colore metal. Esatto, il nero è un colore metal, ma soprattutto il nero più che altro riguardante la parte nera dei sogni, cioè gli incubi. Quindi era anche questo che volevamo trasmettere. E niente, dopo tanto tempo siamo riusciti ad avere una. Sì, un'immagine, diciamo, un che, po' più diciamo che è stata molto apprezzata questa copertina. Se vai su Instagram ci sono veramente molti pareri positivi. Perché appunto ha dato quell'hype necessario a spingere poi la gente a comprare i pezzi. Cioè noi l'abbiamo scritto, l'abbiamo riscritto sia sui profili personali sia sulla pagina proprio ufficiale, che noi non ci aspettavamo di essere per 4 giorni in top 100 Amazon Italia. Cioè c'era Zucchero, cioè proprio il delirio. Secondo di noi e sotto di noi c'era Renato Zero, Renato, che sta sempre sotto Renato Zero. Sta sotto. No, poi stavamo nei pezzi consigliati insieme a quella puttanata di Andiamo a Comandare. Stavamo nei pezzi consigliati. Sì, lì ragazzi, veramente ho rosicato. Sinceramente, dovevamo scavalcarlo. Sì, vabbè, però comunque abbiamo avuto. Però noi siamo, mi sembra attualmente secondo posto, cioè siamo stati primo posto in tutte queste cose per un periodo. Però siamo secondo posto che classificato rock metal, e primo posto mi sembra primo posto eravamo in classifica hard rock metal, okay. Secondo posto nella classifica rock, esatto. Quindi sono delle piccole soddisfazioni, cioè adesso rinnoviamo, cioè Amazon non è solo l'unico canale su cui potete connettervi alla non nostra solo musica. Cercatevi la copertina, sentite, infatti, anche grazie, cercatevi la copertina, magari guardate anche gli altri lavori, approfittiamo per salutare Valerio, guardate anche i suoi altri lavori. Però noi veramente cerchiamo di coprire il più possibile la rete, perché la rete è un mezzo veramente essenziale, e i suoi pro e contro, come potete cercarvi anche l'intervista su Metal Wave mia, dove appunto parlo di internet e dico che internet comunque è un'arma a doppio taglio, perché permette sì di arrivare ovunque, ma poi non permette quel minimo di introito all'artista, a livello diciamo di music business. Comunque volevo ricordare a tutti che se ci vogliono ascoltare, ci possono ascoltare gratis su Spotify, su YouTube. Il canale si chiama Jumpscare Band Official. Spotify Jumpscare, poi siamo su piattaforme come Napster, Tidal, sempre come Jumpscare. Google Play, iTunes e tante altre. Andate sulla pagina Facebook Jumpscare e troverete tutti i link. Benissimo ragazzi, allora avete tutte le coordinate esatte, ricordate che Ready Action è sempre a vostra disposizione. Poi sempre su Facebook ci trovate tranquillamente. Cercate, ragazzi, un po' di interesse, trovate tutto, cercate, una facilità. Ah, scusate se mi interrompo, volevo ringraziare la nostra fotografa per il set del video, Lorenza De Marco. Andate sulla sua pagina che si chiama sempre Lorenza De Marco. Grazie per il set, per l'album fotografico, per la disponibilità e per tutto il resto. Poi vogliamo ritornare a ringraziare chi crede in noi, sia lo studio, la etichetta Beside Music di Salerno, tutti i nostri amici, le nostre persone che ci hanno supportato in questi giorni, ci hanno mandato messaggi, fan che stanno nascendo, perché stanno comprando molta gente soprattutto all'estero. Sì, abbiamo trovato anche delle recensioni su Amazon. Perché se li vuole sentire, magari all'8 a Salerno, al Mumble Rumble, si esibiranno live. Noi saremo lì insieme a loro. Sì, esatto. I nostri amici Circles of Witches. I nostri amici Circles of Witches, che salutiamo tutti quanti di nuovo. Noi saranno live presto. Sì. Stiamo aspettando che ci fanno sapere per le date. Ovviamente, per le date seguite sempre su Facebook, che è il canale principale. Poi ovviamente se avete Twitter, se avete Reverb Nation, noi posteremo sempre tutto su tutti i nostri portali, sempre da Facebook vedete tutto. I live arriveranno, live diciamo abbastanza importanti, data anche la, diciamo, l'età della band, chiamiamola. Sì, sì, sì. E niente, poi sì, rinnoviamo i sapere, seguiteci sulla nostra pagina. Piaceteci soprattutto. E vi piacciono in tanti, perché siamo arrivati a 124 live in questo momento. Vi stanno ascoltando in tantissimi. Ci fa piacere, perché vuol dire che il nostro messaggio, il nostro verbo, la nostra musica può, diciamo, veramente far connettere noi con le persone. Vi vogliamo bene. È davvero Ready Action. Ready Action è onorata di avervi avuto questa sera come ospiti. Onorati noi. Grazie per lo spazio. Ricordo i jump scare, vi ricordo soprattutto di cercare Ready Action su Facebook se volete riascoltare questa puntata quando volete. Trovate Ready Action anche tra i mi piace della pagina Jumpscare. E ve lo chiediamo una canzone, ve lo chiediamo. Ecco, siete felici? Ecco. Giusto, voi siete felici? Ci andiamo ad ascoltare Happy dei Madwin, e ringrazio ancora i Jumpscare per essere intervenuti. Noi ringraziamo Radio Action. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Stay metal. In this home that is me, the dead are rolling over. In this hole, thickening, dirt shoveled over shoulders. Now negativity.